come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che mostro sei. Tu pietà non hai. L'ambulanza va. Vada. Il dramma della Lega. Sempre Lorenzo? Sì, signora, salve, è qui Radio 24 questa fermata? La Zanzara, sta cercando il signor Cruciani, signora. Lei è a favore del governo Monti? Pronto? Non rompa i coglioni, ha detto. Pronto? Sì? Sì. Allora, abbiamo trovato subito una sostenitrice del governo Monti. No, veramente ti ha detto non rompere i coglioni, non mi fare questa domanda. Era una signora educatissima. Buonasera Cruciani, dove si trova lei? No, dove si trova lei? Io sono qui, presente qui alla sede di Radio 24 in via Monterosa 91 a Milano. Lei dove si trova, signor Parenzo? Ah, perché dovevo venire oggi, è vero? Sì. Perché tutti i giorni devo venire al venerdì, no? Sì, sì. È una bella trasmissione questa che fai. Ma dove si trova lei? No, non posso. Ah, qui c'è la polizia. La polizia, va bene. Non mi vuoi dire dove sei? Dove sei? Dove sei? Sei qua sotto, okay. Se dici che è la polizia, Radio sei qua 24, sotto. La Zanzara. La polizia di Milano? Sono parecchio. Va bene, voci da Radio Padania, elettori leghisti delusi da Bossi in questa super sfida con Maroni, che è solo rimandata, è una pace, come dire, finta, no? L'abbiamo capito tutti. Ascoltatori di Radio Padania, via. Io dico che per me sarebbe ora di passare la mano, visto che è sempre stato molto fedele Maroni. Bossi, le sue condizioni fisiche si vedono come sono e c'è poco da nascondere, diciamo, no? Sì. Non è vero che non siamo più fedeli al federalismo, a Bossi, eccetera. È che ci ha traditi, ci ha delusi. Non possiamo pensare di non aver portato a casa niente in 20 anni. Allora, una volta per tutte, anche Bossi dovrebbe dire in modo chiaro e netto che cos'è veramente la Lega e cosa si deve continuare a fare. Siamo tutti sconcertati. Va bene, signora. Bossi, secondo me, dovrebbe ascoltare Maroni, perché non si può fare compromessi con un Berlusconi che è un partito al 50% di corrotti mafiosi. Dando la mano a Berlusconi si rischia di dare la mano alla mafia. Sempre meglio di una casa senza. Ha parlato anche il nostro amico Borghezio. Bossi torna con noi, che non so cosa significa. Bossi torna con noi, sentiamo. Un invito a Bossi, torna quello di quel giorno, torna con noi, torna con la militanza, in testa alla militanza, stacci ancora più vicino, perché abbiamo tanto bisogno di te. Umberto, torna con noi. Ma che vuol dire, Borghezio? Torna con noi dove la Lega rivoluzionaria, a che cosa? Posso darti una notizia? Dimmi. Vera però. Sì. Sto incrociando Maroni. Sì, lo so, è qui sotto, qui alla sede del Sole 24 Ore, sì. Vuoi che vada a beccarlo? In esclusiva? No, non c'è bisogno, non c'è bisogno. Roberto? Bobo? Aspetta che la polizia mi sta portando via. Sì, aspetta, sì, vai, se sei là vicino tenta. Tenta se sei là vicino. Maroni su Cosentino, fatemi sentire la frase secondo me più stupida degli ultimi 10 anni. I parlamentari devono essere uguali ai cittadini, cioè comunque non capisco perché Cosentino non sia trattato come un semplice cittadino. Noi ci siamo convinti, io mi sono convinto che anche che se non ci fosse stata la parola onorevole l'avrebbero dato esecuzione, per questo la segreteria della Lega ha detto di sì. Come? Bossi ha detto noi siamo per il sì, ma siccome c'è qualcuno che esprime dubbi lascio libertà di tutto qua. La parola coscienza non le... Libertà di coscienza. Non ci sei? Certo che ci sono. Vabbè, sali, su, sali. La famosa fatua di Maroni, la fatua all'interno della Lega che gli sarebbe stata lanciata da Bossi, risentiamolo. Da Fazio. Io non so che cosa c'è di peggio per un dirigente di un partito di non poter incontrare i suoi, il popolo. E quindi mi sono sentito duramente colpito da una sanzione che non comprendevo. Ho scritto quindi tutto il mio rammarico per questa cosa, una specie di fatwa, diciamo così, no? Io non so da dove sia arrivato, chi l'ha ispirato, forse c'è nella Lega qualcuno a cui non sono molto simpatico, evidentemente, nei piani alti. Tanta vitamina in più, dei miei collassi non avrai ragione tu. L'ultimo seme, poi la mia sterilità. Mi hai tolto il meglio, adesso che mi resterà? Beh, poi c'è il sindaco di Palermo, il signor Cammarata, che incredibilmente, dopo tutti i disastri, diciamo la verità, che ha combinato, dice che si dimette a testa alta, Sentiamo. Ho sempre pensato all'interesse generale, non a quello particolare, e peggio a quello personale, che adesso ho deciso di dimettermi. Io posso andare a testa alta e reggere lo sguardo di avversari e alleati senza sentire la necessità di dover passare gli occhi. Sempre meglio di una casa senza. C'è una barzelletta di Berlusconi rubata da vari siti, pubblicata su Repubblica, credo, barzetta di Berlusconi durante la festa di compleanno del TG5. Ah, Carletto. Carletto, eccoci qui con Davide Mezzo in studio. Poi sei bello oggi, elegante, capelli bello, biondi. Non esageriamo. Capelli biondi. Non esageriamo. La cosa incredibile di questa vicenda delle dimissioni di Cammarata, sindaco di Palermo, sì, di cui non frega niente a nessuno, al di là di Palermo. Non stava discutendo nessuno oggi. No. È la frase pronunciata, sì, dalla palermitana europarlamentare del Partito Democratico, nonché candidata alle primarie del Partito Democratico a sindaco di Palermo, che è Rita Borsellino, la quale dice di Cammarata, sì, oggi, dopo quello che è successo nel fine settimana con la crociera, con la costa, certo, eccetera, certo, eccetera, affonda e lascia la barca mentre sta affondando. E beh, battutina, diciamo, è la frase del giorno. Fuori signora tempo, fuori Borsellino, tempo. Signora Borsellino, ma giustamente leggo da qualche parte, come si fa a fare un comunicato come quello che ha fatto il presidente della provincia di Milano, il nostro amico Podestà, quello della macchina, ti ricordi? Sì, già abbiamo avuto qualche problemino con il Podestà. Il presidente della provincia, pare che abbia fatto, leggo, ci metta il carico da davanti. Voglio la conferma, sì, il presidente della provincia di Milano, sì, ha fatto un comunicato sì, per dire il Milan ancora squadra più forte nonostante i limiti evidenziati ieri sera. È una cosa pazzesca. Podestà, amico nostro! Bene, con noi però è un grande ritorno alla Zanzara, grandissimo ritorno Mario alla Zanzara. Monti! No, non è mai stato la Zanzara. No, Mario però Monti. Non lo so. No. Si può illudere i nuovi ascoltatori. Di grandissima simpatia. Sì. Calabrese, un personaggio storico della destra italiana. Aia. Assunta Almirante, donna Assunta, buonasera! Buonasera! Come andiamo? Ecco, bella. Mi avete fatto divertire nel sentire tutte queste vostre domande e chiacchiere. Chi? Giorgio, il buon Giorgio? No, che c'entra Giorgio? No, chiedevo, cosa c'entra Giorgio? Avrebbe adesso fatto divertire, ha no, detto. No, lei pensavo si è divertita, che c'entra Giorgio? Pensavo parlasse sempre del marito. Mamma, parla sempre del passato, Parenzo, parla sempre del passato. Senta, a lei piace Monti, signora Assunta Almirante? Chi? Monti, a lei piace? Le montagne, a me, devo dire la verità, ci vivo nelle montagne. Dunque, le montagne le piacciono molto, molto, no? Io vivo nelle montagne. Come i partigiani, anche come lei? Come i partigiani. Lo sapevo. Vivo come i partigiani nelle montagne del Trentino. Sono molto vicino alla Lega. Come molto come vicino alla Lega? Che dice? Scusi, il Trentino è leghista, eh? Ma quando mai? No, assolutamente. Anzi, è di sinistra. Ma Assunta, molto leghista. C'è molto leghista. Scusi un attimo, ma donna Assunta alla Zanzara, questo è buono. Questa via Almirante, alla fine, si fa a Roma o non si fa? Per carità, Assunta, per carità. Non parliamo della strada, parliamo di altre strade, ce ne sono tante. Beh, scusi, la vuole o non la vuole? Cerchiamo di prendere la migliore. Ma lei la vuole o non la vuole sta strada intestata sua? A me non mi interessa. Brava. Non le interessa niente? Penso di dedicarla a qualche altro recentemente. Siccome sono una donna che penso, sì, augurandogli buona vita, gli arriva. E dedicheremo la strada. A chi la vuole dedicare, scusi? Glielo sto dicendo. Augurandogli buona vita, cioè a un vivo praticamente. A chi penso io che non glielo posso dire? Io sono abituata a pensare. Ma gli sta facendo la macumba? Come io penso, lei se ne va tranquillamente dal buon Dio. E allora gli dedicheremo la strada. Beh, lei sta augurando, come dire, a qualcuno de morì, cioè sta augurando a qualcuno di la morte. Perché... No. La morte è un mio amico, si chiama Donato. Ah, Donato. Ma chi è Donato? Non capisco niente. La risata mitica. Ma non capisco, ma di chi si chiama Donato la Morte. Ed è stato praticamente il segretario particolare di mio marito. Che è successo? Donato la Morte. Per questo, siccome lei mi ha detto la Morte, io ho pensato a Donato. No, per carità. Ma è certo mio... che nel Miss avevano tutti questi nomi così rassicuranti. Buon tempo, la Morte. Tutti questi nomi un signora po' signora Tirati, io non ho capito se sto sono veri, io non lo so, non ho capito se via della scrofa, tutte cose un po' così. Vabbè, comunque io non ho capito se sto governo Monti le piace oppure no, ancora non ho capito bene. Le piacciono i monti, le montagne? Le montagne mi piacciono, le amo molto, ci vivo. Monti per niente. E io non lo conosco, come faccio a dire che se ne mi so, piace il, o no? Il governo, se le piace. Che io ne ho so. Avuto un uomo bellissimo, quindi di conseguenza ho sempre l'immagine favolosa di quel meraviglioso volto, no? Sempre là. Non è che era proprio bellissimo. Con quegli occhi azzurri. Come si permette? Addirittura bellissimo. Beh, adesso voglio dire... Sì. Che vuol dire? Che mio marito non era un bellissimo uomo? Beh, magari rispetto ad Andreotti sì, però... Ma che c'entra? Ma forse anche rispetto a lei, Ma come si? Vabbè, ho capito. De gustibus. Ma io da giovane non lo ricordo bene le foto. Era veramente bello suo marito. È peccato, la prossima volta gli farò avere una bella fotografia. Era molto bello. Era virile? Era virile? Maschio? Supera l'immaginazione. No! È una cosa pazzesca. Ma secondo lei era più fascista o più virile, più maschio, più uomo? Tutte Giorgio due. Almirante. Ma che c'entrano? Perché fa queste combinazioni ridicole che non hanno nulla a che fare? Giusto, bravo. No, questo... Tra un'ideologia e una personalità brava, degli uomini. Un'ideologia, brava. Infatti, ma pensate sempre a cose fuori dalle regole. Infatti, brava, una è un'ideologia di morte e l'altra di vita. Parlate di cose molto più serie, che ne abbiamo tante e da ridere penso poco. C'ha ragione, ha ragione, brava, lei, donna Assunta, è vero. Siamo qui 800 24 00 24. Ci sono un sacco di cose che sono successe oltre a questa tragedia, naturalmente. Abbiamo fatto una figuraccia anche a livello mondiale, per carità, lasciamo perdere i morti, che è un'altra questione, ma nella gestione complessiva della, nella gestione dei soccorsi, nella gestione complessiva della vicenda. E cosa c'è da notare al di là di questo scontro mortale all'interno della Lega? Alla fine della pena per Sofri, oggi 22 certo. anni, è ufficialmente libero. Finalmente, meno male. Meno male. E poi una io sono felice. Questa frase a me non me ne può fregare meno. Una frase della signora Borsellino che ti ho detto, ma anche una litigata spaventosa dal sindaco di Napoli De Magistris e un giornalista di Repubblica, il quale si è permesso di scrivere che il signor De Magistris aveva parcheggiato la sua auto blu sulle strisce e De Magistris ha parlato di gossip. Cosa c'entra il gossip con le notizie date? Non si capisce. T'hanno tanato, caro Gigetto, t'hanno tanato. Senta, signora Almirante, le voglio chiedere una cosa. Ho letto una cosa molto sgradevole che è uscita nei giorni scorsi e che riguarda ancora una volta il passato. Mi sta ascoltando? Sì, certo. Una cosa che ha detto addirittura, lei lo conosce il signor Ciarrapico? Sì, ma quello è da ridere. Potevo essere io quella donna. Come? Cioè, allora aspetti, spieghiamo agli ascoltatori. Ah, poteva essere lei al posto. Agli ascoltatori. Non è una cosa terribile, è una cosa gradevole, non è, anzi la risposta è stata pure piacevole. È meglio con un uomo, con una donna, che con un uomo. Ma allora è vera quella vicenda? Ma non è vero, sono quale? Balle. Mi spieghi, se cioè, tu non sai nulla. Sono tutte delle balle che il dottor Ciarrapico, simpaticissimo, molto amicone di mio marito, molto fascista. Era facile sapere raccontare le barzellette superando a Berlusconi. Addirittura? Sì, sì. Cioè, allora, io spiego a Parenzo... Guarda, che... Ciarrapico è di una simpatia senza limite. Sì, peccato e la sua ideologia. Sa inventare le cose in una maniera straordinaria. Cioè, lei dice un... È molto bravo, Racconta è piacevole stare a passare con lui una serata. Però racconta un sacco di balle, dice lei. No, questa è una cosa che fa ridere. E forse, siccome lui voleva molto bene a Giorgio, ma proprio bene, bene, bene. Sì, sì. E allora, quindi, pensando, diceva, questo adesso in questo traffico... Sì. Di gente che viene se lo dimenticano. Aspetta che metto io una cosa carina, Beh, carina, insomma, adesso vuol dire, non è proprio è piacevole, stato. Non è una cosa. Ma che ha detto? Cioè, allora, me voglio ricordare ricordi, a Parenzo io... che è ignorante. Allora, la questione è questa: Ciarrapico ha detto. Sì. L'ho letta, guarda, l'ho letta. No, ma per me. Lo ricordo a Parenzo che è ignorante. Io non ricordo le cose. Almirante fu sorpreso. Ma no, fu sorpreso. No, aspetta, no, è come la una racconta. Cosa, come la... carina di un pettegolezzo carino su Giorgio Almirante. E appunto un lo spiego. Giorno lo hanno incontrato con una donna, lo hanno pescato con una donna. E allora io praticamente qualcheduno, certamente sarà qualche guardia, qualcheduno sì, che l'ha fermato e gli ha detto: ma le pare che sia una cosa possibile, da ridere, una cosa veramente fuori senso. Cioè, e dopodiché e gli ha detto, dice: beh, è bene che mi avete trovato con una donna e non con un uomo. Ecco, qui è stata la no, però poi c'è la storia di Giorgio Almirante, nasce la questione sul giornale. Però scusi un attimo, donna Assunta, c'è anche la questione delle foto. C'è anche la questione che ci sarebbero delle foto. Ma quante fesserie, ma quante. Vabbè, ma lei è donna di queste foto. Sono 23 anni che l'uomo non c'è più, ancora conservano ma le sì, foto, niente meno magari di 40 anni fa. Lei è una donna di mondo, poi anche se fosse, insomma, no? Ma no, non me ne frega niente. Ma certo. So che non è vero, quindi è un'invenzione. No, ma anche se fosse. E la donna potevo essere io. Ma anche se fosse vero. Anzi, sicuramente era lei, diciamolo subito. Ero io sicuro. Lei sicuramente. Ma perché a un certo punto ci arrabbico se non uscita con questa cosa? Ma per divertimento, no, glielo ho detto. Gli dico, anzi, lei potrebbe avere la gioia di invitarlo una sera a cena e passerebbe una serata piacevolissima. E perché non vi chiamate? Perché non vi sentite? Invitiatelo. Io l'ho invitato parecchie, svariate volte. E non è mai non venuto. Una, e non è mai venuto. Migliaia di volte abbiamo passato delle serate favolose. Se vi piace così. Però perché scusi. È simpatico, gradevole, certo, intelligente, ecco. Scusi un attimo, però la storia ha del verosimile, perché queste foto. No, ma è una cosa fuori tempo. Ma dopo 24 anni, ma ve ne rendete le cose? Ma scusi, ma lasci perdere il tempo. Questa sarà una cosa di 30 anni fa. Ho capito, ma suo marito è infrattato a Villa Borghese con una signorina. Ma non è vero, non c'era Villa Borghese, non l'ha detta Villa Borghese, ce l'ho io il giornale. Non questo ha detto Villa Borghese, no, vabbè, non ha detto niente. No, però, questo non ha citato né posto né luogo, ha detto un peccatuccio di Giorgio Almirante. Un peccatuccio potrebbe essere. Ma perché è vietato? Scusi, No, lei non ha fatto mai l'amore con una donna? Guarda, questa domanda. E allora perché è andata ad indagare su cose che non vi riguardano, che non vi interessano? Che non possono fare niente, non danno piacere a nessuno. Ecco, ma lei ha mai fatto l'amore con una donna? Ho indagato io. Io ho sorriso, mi sono messa a ridere da morire e l'ho pure chiamato. Dico: Peppi, ma che te lo sei sognato stanotte? E lui? Ma ha detto: sai, mi è venuto in mente. È venuto in mente, allora significa che qualche cosa di vero. Mi è venuto in mente da ridere, no? Vedendo che tutti si azzuffano appena sentono queste cose della donna, dell'uomo, del fidanzato. Ma ci sono tante cose serie da guardare, non se voi andate con gli uomini o io vado con gli uomini e voi con le donne. Che me ne frega. Scusi un attimo. Che se ne frega a noi. No, per carità. Scusi un attimo, però lei è vero che era gelosissima di suo marito, no? Io, ma manco per niente, mai. Mai. Come? Non aveva i suoi informatori. Non mi sono mai sentita inferiore a nessuno. Non aveva i suoi informatori all'interno del partito. No, mai nella vita ho pensato a queste cose. Io non ho mai capito una cosa nella mia profonda ignoranza. Ma perché lei la chiamano sempre donna Assunta? Perché sono una donna assunta, sono nata con donna. Quando sono nata hanno detto: è nata donna assuntina. E da noi queste cose si usano. Perché è un titolo nobiliare, donna Assunta. Perché? No, ma è che io che è una. Ma dico, ma perché si sente male lei a chiamarmi donna Assunta? No, mi sento benissimo, ma io le voglio sono anche. Sono così abituata. Le voglio bene. Mio abito che mi fa impressione quando mi chiamano solo Assunta. Appunto, questo volevo dire, cioè è una cosa, io sempre conosciuta come donna Assunta Almirante, capito? Non semplicemente Assunta. Che danno può provocare e che piacere può dare? No, a ma io. Nessuno. No, noi, anzi, no, si figuri, no, anzi. E allora che c'è da discutere su una cosa? Scusi un attimo, ma quando Berlusconi ha detto quella frase qualche settimana fa su Mussolini, no? La democrazia minore, i diari di Mussolini, lei che cosa ha provato? Ma io non provo mai niente di queste cose, i sentimenti miei sono al di fuori di queste cose, io vengo da una famiglia di monarchici, non ho mai avuto il senso del fascismo né della disciplina che in questo momento ci vorrebbe come. E che ci vorrebbe? Che ci vorrebbe? Che ci vorrebbe? Ci vorrebbe e come? Ma cosa ci vorrebbe in questo momento? Sì, perché ormai siamo in non si capisce più niente, c'è la rivoluzione francese in Italia, quindi di conseguenza non si capisce più niente. Cioè, cosa né ci vorrebbe? Ci chiamano, né come ci chiamiamo, né come dobbiamo camminare, né se ci dobbiamo spostare, dobbiamo chiedere i permessi, insomma, è una situazione che è un po' piacevole e sgradevole a tutti. Comunque, io mi sento nei miei panni così, normale, ma dico, ma Veramente siamo in una condizione tale da doverci preoccupare se uno si chiama donna. No, no, per carità. Ma queste sono le follie di Parenzo. Ma lei tra, tra Bossi. Non penso che una, no, una trasmissione così intelligente come no, la tua. Ma questo è Parenzo. Ma è Parenzo, è stato Parenzo, poi glielo diciamo. Senta, possiamo ridere, no? No, in 30 secondi, perché mi scusi. Siamo dispiaciuti? No, in 30 secondi, ma tra Bossi e Maroni, lei chi preferisce? Nessuno dei due? Io no, io no, io preferisco Maroni. Ah, Maroni è un uomo che la Lega non si rende conto che lui, che la Lega come, come fondazione, come sì, partito, sì, come si chiama lei, ha praticamente un uomo veramente capace, sì, che oggi, oggi in Parlamento si desiderano gli uomini come, come Maroni. È un uomo di una grande capacità. Bene, è il nuovo almirante, l'endorsement di donna assunta almirante nei confronti di Maroni. Maroni. Lo ha capito definitivamente. È il nuovo, è il nuovo. Grazie, giornale radio. Baci. Bene, eccoci in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Buonasera Cruciani, buonasera ai suoi radioascoltatori e un abbraccio forte agli amici della Confindustria. Vabbè, ma sempre queste slinguate. No, vabbè, sempre questi, ah no, anche agli amici della Sette. Questi lecca lecca continui, una cosa incredibile. Lecca, incredibile. Lecca, lecca. Beh, bene, comunque, titoli del TG3. Ho salutato la Confindustria, mica i casalesi. Titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Ferma a 16 la cifra ufficiale dei dispersi nel naufragio della Concordia, ma mancano all'appello 12 tedeschi, 4 francesi, 2 americani, 6 italiani, recuperato un sesto corpo. Per il disastro del Giglio il procuratore di Grosseto non esclude che possano esserci altri indagati. Stiamo verificando la catena di comando. La manovra non era autorizzata. Il presidente di Costa Crociere prende le distanze dal comandante. Non ha rispettato le regole, l'azienda si costituirà parte civile. Corsa contro il tempo per evitare il rischio di disastro ambientale. A bordo 2.300 tonnellate di carburante, arrivati tecnici dall'Olanda. Il ministro Clini, stato di emergenza. Dura reazione europea al declassamento. Il commissario Rehn, le agenzie al servizio dell'America. I mercati tengono, salta il vertice Monti-Sarkozy-Merkel. Monti vede Alfano, Bersani e Casini. Sia una mozione unitaria che rafforzi il governo in Europa. Par en peu, l'Italia sulla buona strada. E dopo le tensioni dei giorni scorsi, lungo faccia a faccia tra Bossi e Maroni, che ieri ha chiesto di aprire la stagione dei congressi. Pronto? Onorevole Cosentino? Sì? Buonasera alla segreteria dell'onorevole Bossi. Posso passarglielo? L'onorevole vuole, sì, parlarle. Sì. Grazie. Pronto, Nicola? Nicola, pronto, ciao, come stai? Buonasera, bene, bene. E volevo salutarti, volevo dirti che questa telefonata deve rimanere tra noi, perché sì, sono contento alla fine di come è andato il voto. Adesso c'è il problema con Maroni, con Bob. Io non finirò mai di ringraziarti, non finirò mai di ringraziarti, perché sei stato decisivo per evitare una zozzeria, insomma, che stavano ulteriormente portando su di me, ma in particolare sulla PDL Campania. Ti sono grato per la vita, questo lo devi sapere. Io adesso abbiamo un problema con Maroni, che anche lì da quel fazio lì vuole rompere tutto. Meno male che non hai ringraziato la Lega. No, e lo faccio perché era inopportuno farlo per dare adito. Io ho ringraziato il Parlamento senza ringraziare nessuno in particolare pubblicamente, ma io ho detto anche al presidente Berlusconi, insomma, che insomma, sono contentissimo e ti ringrazio per la vita. Naturalmente qua ci stanno rompendo il culo qui al nord, perché è una storia brutta, perché lo so, il problema lo so, con la base, so. Adesso tutti che telefonano e dicono: avete salvato Cosentino, avete salvato. Lo so, ma io dimostrerò la mia totale estraneità a tutte queste porcate. 20 anni ha governato solo la sinistra, siamo stati sempre all'opposizione. Vogliono colpire il cambiamento, perché è da un anno che siamo al governo. Loro 20 anni e hanno generato questo sistema. Hanno un sistema di clientele, di sprechi. Sotto di loro sono state sciolte 60 amministrazioni comunali per infiltrazioni della Camorra, tutti i sindaci della sinistra. e nessuno qua ha detto mai niente, né la stampa, né la magistratura, né niente. Vogliono colpire politicamente, io sono soltanto uno strumento, ma vogliono colpire la PDL, il centrodestra, che dopo 20 anni di opposizione da un anno sta al governo della regione. Questo è. Io adesso con Maroni, comunque, siccome è stato ministro degli interni, è stato con me ministro degli interni, ogni volta che è venuto io insomma l'ho apprezzato dalla stampa, l'ho difeso, ovunque sulla legge Bossi, sulla la tua legge sull'immigrazione, mentre i magistrati, compreso quello che ha giudicato me, invitava la disobbedienza civile, io lo difendevo il provvedimento nelle piazze, ma insomma, con me ha sempre avuto un rapporto normale, cordiale, poi lui lo sa bene come stanno le cose in campagna, da lui non me l'aspettavo proprio. Ha fatto un calcolo politico. Vabbè, magari ci vediamo, voglio venire qua. Ti mando un bacio grande. Vengo con Renzo magari giù. Fatto, perché va anche, bene. Anche Renzo ti voleva salutare. Ciao, grazie. Va bene, Nicola. Ciao. Che è successo? Come? Che è successo? Ma non lo so, perché ogni tanto telefona qualcuno, qualche intercettazione, roba. Gazzarapelti. Sempre così, tanto se ci sono delle conversazioni che entrano dentro. E non... C'è questo. Ma chi era prima? Si è riconosciuto la voce? A me sembrava una è inconfondibile. È Cosentino. Ah no, tu dici Cosentino. Una era inconfondibile. Era l'onorevole Cosentino del PDL. L'altro mi sembrava Bossi, però. Posso sbagliare, eh? Sì. Per carità. Errare umano est. Perseverare est diabolicum. Ma cosa ha detto tra l'altro? Perseverare est diabolicum. Cos'è che ha detto? Non finirò mai di ringraziarti. Ma cioè, non finirò mai di ringraziarti. Sei stato decisivo. Ti do un bacio grosso. Alla fine questo è buono, sì, un bacio grande. Un bacio grande. Un bacio... Sei stato decisivo per il risultato, per questa zozzeria, questo è il termine. Per evitare la zozzeria. Ti sono grato per la vita, no? Sì, sono grato per la vita, certo. Beh, è una bella telefonata tra due persone che vanno d'amore e d'accordo, mi sembrava. Così, no? Sì, dal tono sì. Beh, c'era anche un po' di entusiasmo di Cosentino, evidentemente, visto il risultato della votazione, diciamo. Non c'è dubbio. Signor Davide da Milano, 800 24 0024, prego. Buonasera. Io volevo intervenire brevemente sulla. Che è successo? Una tentazione. Faccio una brevissima premessa. Nulla contro Adriano Sofri, anzi, massima stima e simpatia. Sì. Quello che mi lascia molto perplesso di questa vicenda, però, sono alcune considerazioni che facevo sulla discrezionalità che la giustizia ha usato in questa situazione. In realtà, Adriano Sofri, a fronte di una pena detentiva, o sì, meglio, di una pena comminata di 22 anni, sì, ha avuto una detenzione effettiva di probabilmente poco superiore a 5 anni. Ma tutto questo, la riflessione è velocissima. Molto per motivo, cioè, di salute. Molta di questa vicenda. Ci sono stati motivi di salute anche? Sì, ma mi risulta che. Sì, non lo so perché, ripeto, la questione. Da circa 6 anni Adriano Sofri, di fatto, invece di essere agli arresti domiciliari come la sua pena prevedeva. Sì, però adesso non possiamo entrare nel merito. Una normalissima attività giornalistica. Sì, vabbè, allora. E allora questo fa solamente una riflessione sulla discrezionalità che la giustizia applica ai cittadini diversi dagli altri. Adriano Sofri ha sempre potuto contare su una campagna di stampa particolarmente, come dire, benevola nei suoi confronti. E questo è stato il risultato. Nessun altro detenuto agli arresti domiciliari avrebbe potuto fare quello che ha fatto Adriano Sofri. Ma questo, ripeto, senza aver nulla contro Adriano Sofri, è solo una riflessione generale. Guardi, che la situazione rispetto ad altri detenuti sia diversa è perché Sofri è diverso dagli altri detenuti, ognuno di noi è diverso, non è che tutti i detenuti sono uguali, c'è chi è più capace di scrivere, chi è meno capace di scrivere, chi Sofri non è intellettuale, proprio, chi non scrive proprio, eccetera, eccetera. Dunque, non è che si può impedire a qualcuno di scrivere anche quando è incarcerato, primo. Secondo, oggi finiscono ufficialmente i 22 anni della condanna. Che c'è da aggiungere? C'è da aggiungere quello che diceva prima, scriveva, leggevo su Twitter Mario Adinolfi, forse siccome il signor Henry De Luca, e poi chiudo con questa vicenda di cui evidentemente non parlano qui nei corridoi, nei bar. No, la storia di Luca, la storia polemica di lotta continua. Henry De Luca però... ha detto ridateci il corpo, a un certo punto disse ridateci il corpo di Sofri. Ha ragione, ha ragione. E noi Henry. Racconteremo tutta la vi racconteremo, vi diremo tutto quello che è successo. Ce l'ha ragione. Grazie. Dove andiamo? Piero da Milano, buonasera. Piero, signor Piero? Dov'è? Piero? Ma cos'è sta voce ma sotto? Ma che ne so. Marco da Treviso, buonasera. Sì, buonasera, mi vada. Sente? Sì, vada. Niente, io volevo fare un'osservazione al simpaticissimo Parenzo. Quando parlava con la signora Almirante, gli ha detto che l'ideologia fascista sarebbe un'ideologia di morte. Beh, abbastanza, allora, mi pare. No. Sì, ma tanto quanto sarebbe l'ideologia comunista. Se avessi avuto un interlocutore, se avessi avuto un altro interlocutore, diciamo così, che faceva l'apologia del comunismo, gli avrei detto la stessa cosa. Ah, okay, essendo il signor Almirante, con tutto rispetto, ormai è morto. Sì, collaboratore della difesa, già collaboratore della difesa della razza, giornale diretto da Telesio Interlandi nel 1938. Lei capisce bene che fu. Sì, ma lei ha parlato di ideologia. Io posso parlare delle persone e dire che le persone sono dei delinquenti. Però l'ideologia, qualsiasi ideologia può essere di morte, anche l'ideologia filoamericana può essere di morte. Vabbè, non è una. Ma caro Marco, non mi sembra che. Io non sono né di destra né di sinistra. No, ma va bene, guardi, per me qualsiasi dittatura è un'ideologia della morte. Sì, mettiamola appunto, così, non me ne frega niente: fascismo, comunismo, il socialismo reale, altre cose ancora. Vabbè, ma non ci occupiamo di filosofia politica qui. Giuseppe da Parma, buonasera. Grazie, salve. Buonasera. Vada. Chi è? Allora, io non vi conosco, vi conosco solo attraverso la televisione, siete due persone simpatiche. Grazie. Roberto Saviano, anche lui lo conosco solo attraverso la televisione. Sì. Se devo fare il tifo per qualcuno, dico faccio il tifo per Saviano, piuttosto, come persona, come quello che esprime, i libri che ha scritto, le cose che scrive. Recentemente... siccome ascolto anche spesso e volentieri anche Radio Radicale, allora? Ho sentito che Marco Pannella dice che tra i suoi iscritti c'è Roberto Saviano. Allora? 60 minuti. Allora dico, è vero, sapete anche voi, vi confermate questa notizia? Guardi, è una cosa fondamentale. Scusi, questa, Giuseppe, per sapere se, siccome lei ascolta Radio Radicale, se per caso il signor Saviano è iscritto al Partito Radicale. Ma le sembra logico tutto questo che chiama Radio 24? No, scusi Giuseppe. No, un abbraccio. Un momento. Scherzo, amico mio, scherzo. Perché lei è così interessato a sapere se Roberto Saviano è iscritto al Partito Radicale? No, ma milioni di ascoltatori in questo momento. Perché io ascolto Radio Radicale, ma non ho niente a che spartire né con Pannella né con i radicali. Altre curiosità l'ascolto che possiamo... soddisfarlo? Certo, un'altra è questa. Ecco, sentiamo, prego, sentiamo. Un'altra è questa. Sì. Ho sentito da Radio 1 che... No, prego. Dottor Parenzo. No, ma scherzo, calmi. Ma io scherzo, calmissimo. Io dico questo. Sì. Ci sono delle situazioni, alcuni anni fa, parecchi anni fa, okay. Quando si entrava in alcuni paesi c'era scritto comune denuclearizzato. Sì, allora? Sì. Allora adesso io ho scritto a Saviano per capire un momentino se è vero che lui è iscritto al Partito Radicale o no. D'accordo. Ho scritto a lui, spero che mi risponda. Speriamo. E poi gli ho lanciato questa proposta, visto che lui è uno che parte di media. Sì. La proposta è quella, questo comune fa di tutto per non essere un comune... a favore della mafia. Bene, posso comune mafiosizzato. Possiamo stare, cioè, io ho scritto una... Scusi un attimo, guardi, sono le 19:21 e 40 secondi. C'è una terza cosa da dirci, per caso. E dobbiamo dare la linea alla borsa. Siamo qui, 800-24-00-24 per chiamarci in diretta. Piero, ecco Piero, abbiamo ribeccato Piero da Milano. Piero Chiambretti? Vada. Sì, pronto, sono Piero di Saronno. Piero di Saronno, molto bene. Bene. Ascolti, mi scuso con le vostre segretarie che mi ero un po' infervorato. No, ma lei deve infervorarsi. Perché sei infervorato con le gentili e belle ragazze? Ma parlare della Lega e dei contrasti che ci sono all'interno? Ma non ci sono. Ma i problemi che ci sono negli altri partiti, niente. Però oggi vede. Scusi, caro signor Piero Dassaronno, beh, si dà il caso che in questi giorni risaltino, vengano d'attualità, risultino, come dire, trattati per alcuni motivi che lei sa bene, i problemi all'interno della Lega Nord. I forti contrasti. Quando ci sono problemi all'interno del Partito Democratico, del PDL, ce ne non sono ci stati sono mai tantissimi, come non no. Non ci sono mai sentito dei problemi interni al PD o al PDL, solo nella Lega. Guardate che se continuate a denigrarla, la Lega continua a aumentare i suoi consensi, eh. Ma lei dice, a me va bene, a me va benissimo, anzi, perché... Ma lei di che... Lei con chi sta? Con Maroni o con Bossi? No, io sto con la Lega. Maroni o Bossi? Adesso mi pare che abbiano due linee un po' diverse, un tantinello diverse, no, amico mio? Ma Parenzo, lei che è di casa a Milano, venga domenica in Piazza al Duomo, vediamo i contrasti che ci sono tra Bossi e Maroni. Ma quelle sono cose... È normale che adesso si tenti una riconciliazione, certo che si parli sullo stesso palco. Il voto su Cosentino, ad esempio, le è piaciuto o no? Punto di ma domanda. Ma cosa vuole che mi piaccia nel PDL? Oppure anche nel PD? E chi è che l'ha salvato Cosentino? Monza, Penati, Cosentino a Napoli. E poi dopo, se andiamo a tirar fuori tutti questi assessori, consiglieri di tutte le parti, all'infuori guardi caso della Lega che non mi ricordo, forse perché ho la Lega stampata nel cervello, non riesco a vedere quando ci sono assessori leghisti, consiglieri leghisti, esponenti leghisti, inquisiti o arrestati. Scusi, caro mentre invece negli altri partiti sì. Scusi signor Piero, lei ha detto che ce l'ha stampata nel cervello, ma ce l'ha stampata anche a fuoco, così come fosse un tatuaggio, marchiato a fuoco? Ma dai, ma siete voi che... Ma quanti giorni è che parlate della Lega? Ma quando diventa notiziabile, interessante... Quando c'è la notizia tutti ne parliamo. Tutti i giorni. Ma non dobbiamo parlarne più? Il materiale, il materiale abbonda, come dire, il materiale abbonda, no? Ma io glielo dico, a me sta benissimo. Con più denigrate e con più aumentano i suoi consensi la Lega. È pacifico. Scusi. Perché i consensi, oppure i sondaggi, no? Negli ultimi periodi erano spariti. Ma lei con chi mi sta, signor Piero? Sì. Con chi mi sta? Con Maroni Bobo o con Bossi? Io gli ho detto che sto con la Lega. Lui, con la capito? Lega io sto. Sto con la Lega e sto anche con il Trota. Che il Trota non ho mai fatto una figura come il sottosegretario sabato sera nei confronti dei tassisti. E lei era in diretta, Parenzo, se non mi sbaglio, con i tassisti. Che gli diceva che gli dava una licenza a ogni tassista. No, Ma secondo te posso dare amore da Saronno, ma secondo te io posso regalare licenze ai tassisti? Ho detto in quel collegamento che il sottosegretario ha detto un'altra cosa, però perché bisogna anche oltre a vedere Piero un attimo solo, vediamo che cosa ne pensa della Lega in collegamento con Venezia. Massimo Cacciari, professore, buonasera. Come sta? Come vuole che stia? Ma è tanto tempo. Sono sempre incazzato nero, non si capisce niente. Ma cos'è che non mi hanno neanche chiamato tutti questi tecnici, andano a Remengo, come si dice a Venezia. Ma quali a Remengo devono andare. Ma i tecnici lei dice... Io sono un professore, un studioso di Kierkegaard. Perché dovrebbero dovuto chiamare? Per fare cose? Ministro hanno di messo che? Questo Monti, chi è questo Monti? Io sono Massimo Cacciari, il grande sindaco di Venezia. Ma come la vede la situazione della Lega tra Bossi e Maroni? Ma è finita la Lega, e io lo dico da 20 anni, bisogna fare l'accordo con il PD del Nord e con la Lega e con Maroni. Bossi deve andare via. Ho capito, va bene. Grazie al professor Cacciari. Piero, ringrazio anche lei. Andiamo a Prato da Andrea, buonasera. Buonasera signor Cruciani, dottor Cruciani. Prima di tutto mi volevo complimentare per il cambio di tono della sua trasmissione da qualche mese a questa parte. Quale sicuramente cambio di tono c'è stato? Scusi, non mi rendo conto. È un po' più scanzonato su certe cose, serve un po' a sdrammatizzare il momento, che io lo vedo veramente. Ma sono anni che va avanti così, comunque. No, prima era più formale, diciamo. Ora non so, perché non è che riesca a sentirla tutti i giorni. Male. Troppo. Vabbè, vabbè. Sì, sì, me ne rammarico anch'io, ma potete dire. Ma bisognerebbe mettere anche delle sanzioni. Sì, no, dovrebbe diventare reato. Probabilmente il governo Monti ci sta lavorando. Reato non ascoltare la Zanzara. Beh, potrebbe essere una proposta. Io volevo proporle un'iniziativa, avevo provato a mandarle anche una mail in questi giorni, siccome credo che uno o due dei problemi principali per cui l'Italia versa in queste condizioni sono a suo tempo la malefica riforma retributiva delle pensioni e la riforma della scuola che l'ha portata ad essere un diplomificio dove poi con il diploma si chiedeva la raccomandazione per essere sistemati nel pubblico impiego e così ci troviamo il doppio dei dipendenti pubblici più o meno come media degli altri paesi europei. Queste cose furono approvate il 26 marzo del 1969 in una seduta del Parlamento dove l'unico che si schierò contro queste due cose in maniera terribile fu l'onorevole Giovanni Malagodi dicendo proprio che non si poteva finanziare. Malagodi, siamo arrivati a Malagodi addirittura, grande. Certo, certo, io vorrei proporvi, se vi andate a rileggere quello che disse lui, basta andare su internet, ci sono tutti gli atti del Parlamento, anche vabbè, quello scusi, lì. Scusi però Andrea. No, ma ha ragione, perché sì, non leggiamo sì, in diretta alla radio gli atti del Parlamento? Bastano poche parole. Sì, ma ha ragione, scusi, Malagodi, Andrea, però, Calamandrei, bellissimo. Ci vuole una cosa rapida, un intervento rapido e efficace. Infatti concludo. Cruciani secondo me, se fossimo stati ad ascoltare Malagodi, ma ci saremmo trovati a questo punto. Io volevo proporle in maniera provocatoria di farsi promotore di una proposta di fare un monumento a Malagodi di fronte al Parlamento. Poteva salvare l'Italia, ma non fu ascoltato. Andrea, è la prima cosa che mi verrà in mente domani mattina quando mi sveglio. Guardi, glielo posso dire con certezza, guardi, con certezza. Perché credo che bisogna anche poter fare queste proposte. Sì, no, ma ha fatto benissimo. Delle righe. L'ha fatta alla persona giusta, soprattutto il signor Cruciani, che tutte le mattine pensa al signor Malagodi, certo. È la persona giusta. Andrea da Parma, buonasera signor Andrea. Modena, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ma io volevo semplicemente intervenire per cosa si sta dicendo della Lega, non della Lega. Ma la Lega io l'ho vissuta dagli albori, dalle cene con Miglio, con Bossi, quando Bossi era un perfetto sconosciuto, con Balocchi, buonanima, che era il segretario tesoriere nazionale amministrativo, con Maroni, Calderoli. Non c'è più quella Lega lì. Oggi la Lega sta all'opposizione semplicemente perché c'ha le commissioni in un governo tecnico, le commissioni di partito che non le cadono per statuto del governo tecnico, quindi sta all'opposizione. Se no se ne sarebbe andata anche lei da fare l'opposizione, sarebbe andata col PDL. Ma questi messaggi alle militanze non glieli mandano più. Gli dicono che sta all'opposizione perché non sanno più come fare per raccogliere consensi. Ma non è la realtà. Bene Andrea, grazie. È con noi sempre 800 24 00 24. Stasera grande serata, grande serata. Cosa ha messo in piedi? Grande serata. Cosa ha messo in piedi? L'onorevole Cruciani. Luca Paolini, Lega Nord. Buonasera. Buonasera. Oddio, l'hai annunciato. Giubilo, direi che sospetto. Ecco, leghista delle Marche, avvocato penalista, membro della giunta per l'autorizzazione a procedere, un sacco di cose insieme. Paolini. L'uomo che ha salvato Cosentino. Ma non è mica solo. Partiamo male. Mica solo lui. Scusi, ma com'è un marchigiano della Lega? Sì, io mi piace questo accento. Mi piacerà sicuramente sentire il suo accento. Paolini, un marchigiano. Io sono di Pesaro, quindi lo sente subito, lo accendo. Quasi romagnolo, perché sto più quasi romagnolo, certo, vicino a Rimini che a San Benedetto, ma comunque sono marchigiano. Ecco, ma lei quando è diventato leghista? Mi dica la verità. Perché cosa le è successo? Nel 1993, guardi. Addirittura, a 33 anni. Subito, esatto. Ma cosa le è successo? Momento, guardi, la persona che la cosa che la prima cosa che mi ha colpito di Bossi è il suo impermeabile, lo chiamavo il tenente Colombo, non ho mai fatto politica prima, questo parla in modo diverso. Io ho fatto il liceo classico e quando parlavano i vari Remita, Forlani, non capivo niente, credevo di essere io a non capire. Poi invece ho capito che parlavano in modo veramente difficile, per non dire incomprensibile. E invece è arrivato Bossi. Dell'onorevole Bossi, del segretario Bossi, ho capito subito che era qualcosa di nuovo e quindi mi ha, come dire, conquistato la politica. Beh, certo, un dito. Scusi un attimo, Bossi, tu che cosa qual è stato, diciamo, il adesso, linguaggio noi, dei segni, diciamo. Noi scherziamo, Bossi era così. Nel 93 mica era così, Bossi, su, mica sì. 93 parlava. Scusi, Paolini, eravamo molto diverso, no, rispetto al Bossi di adesso. Aveva ed ha, come alla Lega, un progetto politico, sì, è una cosa che si, certo, comprendeva. Cioè. No, è vero, questo è verissimo. Scusi un attimo. Aveva un progetto. Ma qua, dunque, il trauma qual è stato? Scusi se la mettiamo così. Sì. Il suo trauma, uno diventa... Il trauma? No, sto scherzando. È diventato leghista. Diventato leghista. C'è un'occasione, una roba, magari una fidanzata. No, l'impermeabile di Bossi. No, no, guardi. Seguivo da lontano, diciamo, complice è stato l'Indipendente, allora vi ricordate? Che diretto da Daniele Mercati. Poi la cosa ha cominciato a interessarmi, ripeto, io fino a 33 anni non ho mai fatto politica. E che faceva? Per hobby, facevo tutte altre cose, ma... Che faceva fino a 33 anni? Ah, per hobby suonavo, ecco. Come Maroni? Suonavo, cantavo in un coro lirico, ho fatto 10 anni di coro lirico. Ma scusi, qualche mestiere? Il pensiero lo conoscevo, mi ricordo che la prima volta che l'hanno cantato io sapevo il testo perché... C'ho anche le foto vestito a schiavo ebreo, quindi... Ah, cosa pazzesca, cioè, lei foto... è un leghista addirittura prima di esserlo, era leghista prima di esserlo. Adesso non esageriamo. Beh, dai. Sì, le sapeva la va pensiero, eccetera, eccetera. Sapevo la pensiero perché cantavi in un coro lirico. Senta, ma come fai il va pensiero? Lei che è così brava... Ci accenni un'aria. Durate, glielo devo cantare qua, dai. Vuole la base, poi. No, aspetta, ce l'abbiamo. Questa è Radio 24, mica Radio Bobo. Onorevole Paolini, se volevo cantare andavo X Factor. No. Ma questa, adesso sono un parlamentare della Repubblica. Vabbè, guardi, che i parlamentari cantano come fanno anche di peggio, amico mio. Ma poi sono... guardi, alla festa di San Miniato l'anno scorso mi sono esibito dal vivo addirittura in un pezzo dei Police. Quindi facciamo anche cose più moderne. Allora, parliamo di noi, dai. No, sì, parliamo di noi. Ma scusi, lei ha molta fretta di parlare cose di cui gli oggi in realtà non vogliono parlare. Penso che non mi avete chiamato, i nostri telespettatori, non importa. Radioascoltatori, sì. Delle nostre, beh, non si... Ma corso. No, ma del politico. Vogliamo parlare di musica? No, ma è bello di un politico. Ma quello che è passato questi giorni sarebbe veramente una cosa... Ma appunto, è la vera sorpresa. Non la facciamo parlare di Cosentino, ma la facciamo cantare. Guardi, ho fatto anche, siccome che il mio gruppo preferito sono i Beatles, li abbiamo suonati, ho fatto anche vari concerti vestito proprio da Beatles con altri amici appassionati e un poco più di un mese fa sono andato a sentire Paul McCartney con un mio amico che fa il oculista, siamo due appassionati. Lei pensa, quando è morto John Lennon siamo stati 3 giorni con lutto perché il povero Lennon ucciso in modo così incredibile, abbiamo veramente patito quella di partita, ecco. Era un grande giorno. Addirittura. Paolini, guardi che lei, allora, le dico subito che noi stiamo per organizzare insieme al dottor Parenzo qui accanto a me. Cosa? Sì. Idea geniale. Mio, come dire, mio sodale qui alla Zanzara. Non lo so. Complice, vogliamo usare complice, esatto. Sì. Stiamo per organizzare una cosa che abbiamo già organizzato un paio di anni fa. No, tu, idea tua, questo già 2 anni fa. 2 anni fa è le ugole del palazzo. Sì. Le ugole del palazzo, una grandissima gara. Oggi c'è un raffreddore, vengo volentieri. In concomitanza con Sanremo lo faremo. Un piccolo accenno, ma brevissimo. Solo, ecco. No, mi sente come sono raffreddato? No, ma viene più intenso, però. Solo il va pensiero. Guardi, io verrei citato per danni dai vostri ascoltatori, e quindi oltremodo disdicevole. Aspetti, il va pensiero, un secondo, la base che parte. Ma dagli la base. Posso recitare va pensiero, oppure posso recitare il giuramento di Pontida. L'han giurato, li ho visti in Pontida, convenuti dal monte e dal piano, l'han giurato e si strinse la mano, cittadini di 20 città. Oh, spettacolo di gioie lombardi, sono uniti, serrati una lega. Il nemico, il pennò che la spiega, col suo sangue la tinta darà. Vi risparmio il resto. Bravissimo. Giuro che non ho letto, No, ma lo sa. Ma si capiva. Vogliamo continuare a parlare? Eccolo, guardi, senta. Vada. Ma non lo canto, glielo ho già detto, l'ho cantato sempre. Vabbè, comunque, guardi, quando lei starà meglio, con la voce, con tutto... Non mi farà mai cantare. Come no? Ma facciamo questo concorso... No. Questo... Lei deve essere sicuramente tra le... È stato già selezionato dalla giuria di qualità. Ma purché ci siano altri colleghi, allora, come si dice, mal comune, mezzo alle... Ma sì, ma lo sa chi lo fece? Vittima sacrificale... No, ma mica da solo. No, non da solo, assolutamente. Ci sono un sacco di colleghi. Parliamo di un mostro come Verdi, insomma, lo conoscete? Un ballo in maschera, è stupendo. Credo che sia la più bella opera di Verdi. Quella l'ho cantata come corista di coro. È stupenda. Paolini, è un'opera... Paolini, sa che i parlamentari cantanti, in realtà non è un'idea del sottoscritto. Cioè, mi è venuta qualche anno fa questa idea. Però poi ho scoperto successivamente che il primo a... mi vergogno un po' a dire questo nome, no. Ma comunque insomma, prima a tirarla fuori fu in una uno splendido programma, me lo disse Vittorio Pezzuto, uno splendido programma che si chiamava Cipria Enzo Torto. Enzo Torto fece cantare persino il signor Bizzini. Beh, signor Bizzini, sapore di mare. Sono quelle cose patetiche, ma invece no, no, perché un genio era Enzo Torto, cioè che suona davvero, se no lì fa il patetico. Insomma, ho visto anche Mastella cantare, ho visto anche altri personaggi, però un conto è dire che in un contesto di discussione, certo, ti metto un microfono in mano, insomma, anche se uno è bravo a cantare, io sono un dilettante, se è chiaro. E vabbè, ma ecco, non ho la pretesa di chiamare. Allora, la questione è questa. Allora, la questione è questa. Perché lei non vuole libera, suono e canto. Scusi un attimo, perché, in che cosa, non mi dica in che cosa ha sbagliato Maroni? Ecco, canti. Guardi, su Maroni. Lei mi fa dire, secondo me l'unico errore, tra l'altro io con Maroni, sì, sono non solo per 16 anni, fino, spero ancora, ma non so se dopo il mio intervento sarà ancora così, ma mi auguro di sì, perché poi con Maroni non solo c'è stima, e non dico amicizia, perché l'amicizia è una cosa che non, è una cosa diversa, sappiamo tutti cos'è, sì, l'amicizia, però c'è stima e anche così, comunanza di visioni. Questa volta, io secondo me, ripeto, sì, la mia opinione personale, sì, non fa dire che la Lega pensa, secondo me una battaglia che può anche avere le sue ragioni, non entro in merito, però non si fa, secondo me, su una questione di carcere preventivo, di un signore che per 11 anni non è stato mai interrogato. Mm. Primo. Secondo punto, la questione è una questione estremamente complessa. Ma perché sì, lo so, se non entriamo nel merito, che abbiamo già parlato abbastanza. Secondo lei, ha fatto un'operazione Maroni per un po' per dare un segnale, per prendersi la Lega, diciamo, per tutta dare rivolta all'interno ai suoi? Fatto non lo so, però mi credo, io questi giorni ho parlato con un sacco di persone, di uomini politici che mai mi avevano tra virgolette stretto la mano amichevolmente, e anche molto importante, non faccio i nomi per non dirlo, con molti giornalisti che mai mi avevano prima intervistato, non ce n'è uno solo che creda che il problema sia Cosentino, non ce n'è uno solo, di maggioranza di tutti. Ieri è stata grandissima il 13 alla 7 la Melis del Corriere della Sera, quindi un giornale certamente non filoleghista, sì, che ha detto anche molti colleghi del PD, gliela cito testualmente perché è oggetto di una sentita che il Corriere non mi ha pubblicato, però lo dico adesso, quindi almeno voi lo sentite. La giornalista Maria Teresa Melis ha detto, anche esponenti del PD hanno detto che quella richiesta di arresto era risibile. Intanto l'hanno votata però. Come? Intanto l'hanno votata. Cioè, alcuni, però, scusi un attimo Paolini, allora lei sta rivelando al problema politico. Cioè, ho capito, un attimo solo, lei sta dicendo che alcuni esponenti del Partito Democratico... No, io sto dicendo, sto riferendo quello che ha detto alla 7... la sera del 13 gennaio, quindi potete vedere sul sito, la giornalista, il Corriere della Sera, Maria Teresa Melis. Ma in commissione, no, però a noi ci interessa quello che sa lei. In commissione, alcuni del PD in commissione avevano dubbi su... No, non mi faccia dire le cose. Andatelo a vedere, poi non è un'affermazione mia, dice... Anche esponenti del PD hanno detto che quella richiesta di arresto era risibile, hanno detto a lei evidentemente, non in commissione c'ero, non l'ho sentito assolutamente, anzi, hanno sostenuto te. Però chiunque abbia veramente letto le carte si rende conto che un arresto di un parlamentare per un fatto che anche fosse qualcosa è del 2007 è singolare. Tutto qua. Comunque, un'altra cosa. Nella giustizia su Maroni. Maroni ha fatto un calcolo politico, una guerra personale, lei lo ha detto esplicitamente. Mi chiede di dire quello che dice Maroni, non lo so. Beh, scusi, un attimo, lei in un'intervista di qualche giorno fa. Ha fatto così, pur avendo, io riconoscendo che può avere delle ragioni, ma in tutti i partiti ci sono delle tesi interne, anzi, la Lega è un partito che nel quale le discussioni c'è sempre stata. Ma doveva consultarsi con Bossi, forse? Ho preso spunto da un fatto che, a mio avviso, non è quello il vero problema. E dunque, qual è l'obiettivo di Maroni? Qual era l'obiettivo di Maroni? Scusi, ricordo che l'altra volta, quando Cosentino era accusato addirittura di concorso esterno, mentre qui si aveva delle accuse più sfumate, in una addirittura concorso esterno in mendaccio bancario interno, che ci vuole un'ora a spiegarlo, sia Maroni che Marognani avevano votato no. E dunque cosa è cambiato? Cioè è cambiato il clima politico? Un vincolo di coalizione, ma uno, se c'è un vincolo di coalizione ma proprio non se ne sente, potrebbe magari dire a titolo personale, come ho fatto io ho detto, io in giunta voterò sì, perché questa è l'ambasceria che porta in nome della Lega e lì rappresento il gruppo, però a titolo personale l'ho detto prima e l'ho detto dopo, non me la sentivo perché non ero convinto. Senta, ma Maroni è pronto a fare il leader della Lega, la secondo lei? La politica, secondo me, sugli arresti preventivi di uno di 10 anni non è stato mai interrogato. Non si fa politica sugli arresti preventivi. Siamo qui 800 24 00 24. Paolini, le voglio chiedere subito, siamo in collegamento con Luca Paolini della Lega Nord, marchigiano della Lega, che ci ha raccontato strano, anche no, il questa modo cosa in cui nel 93 diventò della Lega, vedendo questo personaggio con l'impermeabile che Colombo parlava chiaro, che come il tenente Colombo, bravo, che parlava chiaro rispetto agli altri politici. Scusi Paolini, ma mi dico una cosa, Maroni secondo lei è pronto per fare il leader della Lega, oppure in questa vicenda gente lei della Lega, lei da deputato della Lega dal 93, che è lì della Lega, fino al nuovo congresso federale, o comunque fino a che gli organi, la base della Lega aveva scelto un altro leader, per me il leader resta solo Umberto Bossi. D'accordo, però Maroni è il successore, è il successore naturale secondo lei, o fa sgambetti? Guardi, Maroni non lo so. Non mi può chiedere una cosa che non so. Però poteva starsene zitto. Io l'ho sempre stimato e lo stimo, e tu continui a stimarlo. Secondo me in questo caso ha sbagliato. Ha messo in difficoltà la Lega? Lui probabilmente pensa che ho sbagliato io a dire, certo, le cose che ho detto in aula. Ma tra l'altro faccio osservare che le cose che abbiamo non le ho dette a lì, perché le abbiamo lette insieme a due suoi, diciamo, tra virgolette, uomini di area, ecco, diciamo così, le abbiamo lette insieme prima di andare in aula, perché non volevo fare appunto quello che fa la sorpresa, e non mi ha detto niente nessuno, anzi abbiamo portato insieme alcune modifiche soprattutto per snellire il testo, e nella dichiarazione di voto ho detto che la Lega vota sì, ma c'è l'opzione aggiuntiva e non sostitutiva della libertà. Senta, ma adesso c'è stata questa sorta, noi l'abbiamo chiamata di finta pace tra Bossi e Maroni, diciamo la verità, insomma questa è una finta pace, una tregua, cioè Bossi è dovuto venire un po' a patti, perché in realtà la reazione della base c'è stata a favore di Maroni. Ecco, lei un po' la conosce la base della Lega, immagino, anche se nelle Marche non è che ce ne siano moltissimi di leghisti, ma comunque Marche abbiamo 53.000 voti, diciamo, quindi ecco, lei consideri che nel 2001 erano, nel 2007 erano 8.000, quindi c'è stata una crescita dall'1,3 al 6,3%, una crescita percentualmente enorme. Ecco, ma questa mordacchia a Maroni era una stupidaggine, no? Sin dall'inizio. Mi guardi, dica. Io ricordo che a caldo mi chiamò un giornalista e ha detto: a me mi sembra una cosa, al di là del merito, che mi sembra è sbagliata, ma al di là del merito mi sembra che impossibile, soprattutto anche volendo, impossibile da realizzare, perché come fa a impedire? Certo, appunto. Il dato è che la base è con Maroni, però. Detto con chiarezza. E infatti poi è stato, però è una vicenda, tra l'altro, vede, io sono abituato ai processi in cui uno parla di quello che sa lui direttamente. Io so il sentito dire del sentito dire del sentito dire. Però ecco, quindi, secondo lei non è un po' un giudizio, comunque a partire così, a prescindere viziato di una cattiva informazione. Però Paolini, mi scusi, i protagonisti diretti, quindi, a quelli che c'erano. Quindi questa idea della mordacchia, no? Che poi è tramontata, cioè di Maroni, no, che Maroni ha parlato di fatto ieri da fatto. Sì, di fatto, vabbè, insomma, adesso non volevo ripetere le stesse parole di Maroni. E secondo lei, Bossi, magari l'origine non è lui, non c'è qualche cattivo consigliere intorno a Bossi? Un po' vicino, magico, guardi, un po' magico. Famoso magico, cerchio magico. Io Bossi lo conosco dal 93. Appunto. Vabbè. Lo conosco perché essendo il Consiglio federale lo conosco. Non può essere stata esattamente bene come lo conosce Maroni. Non può essere stata un'idea sua, dice lei. Guarda, no, io non do giudizi, però giudizi? Vi garantisco che il segretario federale è stanco, più debole fisicamente, ma le garantisco che l'acume politico forse si è affinato ancora. Diciamo oggi, mentre una volta faceva il comizio di 3 ore senza fatica, oggi il fisico gli consente, l'obbliga a concentrare certi concetti politici in modo molto. Quindi alle volte è per stanchezza che si lascia andare. Non detto niente, qualcuno vuole far passare come un po' così stanco, invece è molto acuto. Molto acuto, e capisce forse con la saggezza che gli dà l'esperienza e l'età. Non ecco, ma non ha, non ha dei cattivi consiglieri intorno, capisce, secondo lei? Ma guardi, io i cattivi consiglieri ci credo. Il famoso cerchio magico, il cerchio magico. È una, cioè, Bossi ascolta tutti, è una persona che contrariamente a quanto fa chi non lo pensa, chi non lo conosce, Bossi è uno che ascolta tutti, si informa. forma. Ma come? Ma se... Però alla fine valuta. Ma nel corso degli anni ha fatto delle espulsioni, per carità, anche forse aveva le sue ragioni. Chi non era d'accordo con lui li cacciava fuori in malo modo, Rocchetta, così, Comencini. Ma come no? Un esempio, Prosperini, poi cosa Prosperini, fatto? Rocchetta, Comencini, solo Comino. Via Comino. Miglio, lo stesso Miglio, Gnutti, Miglio. Con Miglio, come no? Litigò con Miglio furiosamente. Ma il problema non sono mai state espulsioni così, per quello che ho visto io. Però anche non lo dipinga come una persona di una bontà assoluta. Pro e contro come è andata. Però scusi un attimo, parliamo Paolini. Domani, sì, parliamo del domani. Allora, Paolini, io le dico, le leggo una cosa che è straordinaria. Lei è delle Marche, non con la realtà della Lombardia, magari. Io dico sempre, sono il più terrone dei padani, il più padano dei terroni, che è una battuta. Però senta, ma nelle Marche... Le Marche sono una regione dal punto di vista produttivo esattamente come il Veneto. Però scusi un attimo, le Marche, alla fine io ho sempre questo dubbio, no? Alla fine, quando ci sarà la famosa Padania, perché lei alla fine vuole, pure lei vuole la Padania, c'è scritto per l'indipendenza della Padania, credo che o no? La Padania è un concetto che filosofico. È un'aspirazione che vuol dire uno Stato federale in cui finalmente uno possa gestire le risorse che produce a casa sua. Lei non è indipendentista. Per pagare 22.000 euro consiglieri di qualche provincia autonoma, magari di qualche regione. Ma insomma, esiste o no sta Padania, Paoli? Guardi, la Padania, lo sa benissimo, la domanda è retorica, la Padania oggi non esiste come entità geografica, ma esiste nel cuore finalmente. Di milioni di persone. La Padania esiste nelle carte della fondazione. Nel cuore, come se nel cuore. Anche nel mio cuore c'è ad esempio la fondazione del pianeta del Bubù, certo. Vabbè, poi dal punto di vista geografico, per l'amor di Dio. Ma anche nel mio cuore, sa quante cose ci sono nel mio cuore? Su una placartina non c'è la Padania oggi. Non ci sarà mai. Se non ci sarà mai, non lo so. Mi dica la verità, Paoli, non ci crede. Lei non ci crede. Come ho detto a molti suoi colleghi, se facevo l'indovino, non ero qui. Vabbè, ma la Padania, appunto, è come dire: ci sarà magari un posto chiamato Bubù. Un domani ci sarà. Io voglio, ad esempio, la fondazione dello Stato di Bubù. Perché no? Domani. Lei si dia da fare. Ma infatti. A Ouagadougou, fonderà il suo regno a Ouagadougou, no? Sì, certo, di Bubù. Scusi un attimo, Paolini, però alla fine io ho sempre questo dubbio. Le Marche rientreranno quando ci sarà, cioè nell'anno del mai, nella famosa Padania, o no? Rientreranno, vedremo la storia, il ventre della storia è gravido di avvenimenti, come si dice in questi casi, no? Vabbè. Vedremo. Io, diciamo, dal punto di vista socio-economico, le Marche sono senza... Se lei guardi, le faccio un esempio. Ma i marchigiani vogliono stare nella Padania o nell'altra parte dell'Italia? Non vuole fare questo sondaggio. Non vuole parlare su questo. Al qualunque marchigiano, lei lo prende uno per strada, sono... prevalentemente un certo leghista. Sì. Gli dici, senti, se proprio si dovesse dividere l'Italia, preferisci stare con la Romagna o non so, con la Calabria? E lei non ne trova uno che dice vuole stare con la Calabria. È una battuta, no? Ma per capito, Paolini, non ci coglioni così. Stato in cui ci sia più equilibrio. Vabbè, ma quello lo sappiamo ancora, quello che volete. Capito, però un conto è quello. Però i confini nel futuro, i confini, ma come non ci credo. Io mi auguro che si arrivi a una bella situazione in cui, come dice uno slogan della Lega Veneta, che è bravissima, che slogan è? Padroni a casa nostra. Questo, cioè, io credo che questo vale per tutte le stagioni, Io vorrei vivere in uno Stato in cui un processo non può durare 10 anni senza che ancora c'è stata una sentenza di primo grado. Vi ricordate? Sì, però questo qua non è che ci vuole la Padania questo, per questo. Ci vuole la Padania, ma 150 anni d'Italia non ce l'hanno dato. Scusi un attimo. Perché poi la Lega non nasce perché c'è stato un grande politico che si chiama Umberto Bossi che ha intuito. Però Paolini, scusi un attimo, una cosa che è arrivata in questo momento. Cos'è arrivato? È arrivata una cosa molto importante, una cosa fondamentale. Una cassetta, cos'è? Sì, una cassetta, una conversazione che è stata, pare, captata nell'etere. La mandiamo in onda così? Sì, poi ci dà il suo... Vabbè, sentiamo. No, prima la pubblicità, va. Sì, prima poi la pubblicità, dopo la cassetta. Poi torniamo, pubblicità. Siamo qui, allora, sentiamo, va. Che sentiamo, è successo? Sentiamo. Pronto? Onorevole Cosentino? Sì? Buonasera, alla segreteria dell'onorevole Bossi. Posso passarglielo? L'onorevole vuole parlarle. Sì. Grazie. Pronto, rigore.

c'è talmente la percezione che siamo tutti intercettati, anche chi ovviamente chi è che intercetta uno perché dice a moglie cara butta giù la pasta a mezzogiorno, però è veramente, guardi, io parlo ogni giorno, un politico parla, io sono un piccolo politico, parlo mediamente piccolo politico, che però ha avuto un ruolo importante in questa vicenda, come? Ha avuto un ruolo importante piccolo politico che ha salvato Cosentino. Mi sono trovato nel posto al centro di una, certamente una battaglia, quindi ero lì, non solo lì, ma sono stato anche in altri casi. Senta, ma secondo lei il deputato, qualcuno dice perché Cosentino non è stato trattato come un altro cittadino? Questa è la cosa che secondo me è la più stupida domanda, perché mi dà modo di chiarirla. Ho detto questo non me la fanno sicuro. Guardate che il deputato non è che... Guarda, io sono d'accordo con lei, io sono d'accordo allora, con lei. Perché una delle mistificazioni più grandi, e su questo devo dire che anche Maroni c'è caduto, o perlomeno lui lo sa, perché è una persona molto intelligente. Sì, giusto. Deputato, come il Presidente della Repubblica, perché l'immunità, ragazzi, non ce l'ha solo i deputati, ce l'hanno i giudici costituzionali. Ce l'ha il Presidente della Repubblica, ma ce l'hanno gli agenti diplomatici. Ha ragione lui, allora mi dica la verità, quando Maroni ha detto da Fazio che un deputato deve essere trattato come un cittadino, ha detto una stupidaggine. Ha detto una stupidaggine, perché un deputato per Costituzione non è. E perché non è? Una volta agitavate le manette in aula, in campo. Ricordati quando forse eri parlamentare nel 92-93. Ricordati che la Lega cosa faceva? Mani pulite, abbiamo mani pulite. Il cambio avete tirato fuori. E adesso avete salvato Cosentino. Avete salvato Cosentino. Attenzione. Quel cappio fu sventolato nel 93 da un deputato della Lega, Leone Orsenigo. Ora io mi chiedo, allora scusate, anche l'attuale Presidente della Repubblica nel 56 ha detto che faceva bene intervenire in Ungheria, ma erano altri momenti storici, politici. Anche lei paragona il cappio? Il cappio della Lega a Napolitano del 56? Cioè i tempi cambiano. Lo seguo, se ma è interessante. Noi accogliamo le vicende storiche di un partito e di un paese a un fatto accaduto nel 93 di un singolo deputato, non era un singolo. Tutti, guardate. Quindi avete sbagliato nel 92-93. Devo dare la linea al traffico. Scusi, vado molto più vicino. È una notizia. Salvini, cioè l'UDC, su Cosentino l'altra volta, cioè nel novembre 2009, 100 anni fa, ha detto libertà di coscienza. Oggi ci vengono a dire che sono scandalizzati. Il FLI, che allora era PDL, e lo Presti, che era relatore, ha detto... Vero. Allora, ragazzi, se vogliamo ancora... ha ragione Paolini, c'è una grande incoerenza su questo. Un sacco di partiti e un sacco di deputati che avevano votato contro l'arresto di Cosentino e contro l'arresto di altri deputati per reati, accusati di reati gravi come quelli di cui è imputato Cosentino, hanno sempre votato contro l'arresto. Questo è un altro discorso. Siccome adesso la politica è cambiata, il vento politico è cambiato, si allineano... Pensate... C'è il traffico, stai zitto, traffico. A quei 52. Bene, prima di tornare agli ascoltatori saluterei il mitico Luca Paolini, che abbiamo scoperto essere un cantante. No, cantante, dilettante. Non si butti giù. Guardi, c'è un deputato dell'UDC, eurodeputato dell'UDC, che si chiama Tiziano Motti. Bravissimo Tiziano Motti. Che è uno straordinario cantante e imita molto bene, devo dire, le canzoni di Vasco Rossi. Quasi meglio di Vasco. Guardi, un altro bravo a suonare è l'avvocato Sisto, collega in giunta, ma è un pianista. Beh, Francesco Paolo Sisto, come no? Mitico, quello che si è presentato a Sant'Oro senza essere invitato. Che è un fenomeno. Un pianista addirittura. Guardi che lei ci dovrà dare una mano anche. Sono molto bene, ma ci faccia da talent scout. Ecco, lei ci dovrebbe fare un po' da talent scout per trovare altri suoi colleghi. Io sono più rocchettaro, dai. Io so suonare, se volete, mi suono i pezzi dei Beatles, anche Blackbird con la chitarra, Malta My Dear. Guardi, noi... anche meno note. Per non parlare di Imagine, le persone di Beatles lo conosco abbastanza bene. A febbraio... Ecco, sarebbe bello suonare insieme a Maroni, che, ripeto, è una persona che stimo e che mi auguro che si possa... Che rimanga nella Lega. Maroni è una persona... Ma rimarrà nella Lega? Tra parentesi, Rimarrà nella Lega, Maroni, sì. Guardi, io mi auguro che la Lega è forte perché unita, il miracolo politico che ha fatto... No, ho capito, ma rimarrà nella Lega Maroni o no? Io non lo so, penso di sì, lui ha detto di sì, che non si andrà mai, e io penso di sì, mi auguro di sì, Ecco, ma il rapporto con Berlusconi è finito? Se questa vicenda possa chiarirsi per lasciare una Lega ancora più forte, ancora più vivace per gli interessi del popolo, della gente del nord che rappresenta, e ci metto anche le Marche ovviamente. Guardate un dettaglio, guardate come votare gli italiani al referendum monarchia repubblica. Tutte le regioni, quelle che noi chiamiamo, noi leghisti chiamiamo padani, cioè da Marche, Umbria e Toscana in su, votano per repubblica, tutte le altre monarchie, chissà perché. Perché? Non lo so, si vede che forse là, da una parte sono stati comuni, da là c'è stata il latifondo. Noi riteniamo che sia quella poi la vera la storia non si improvvisa, forse la mentalità un pochino diversa, inutile negarlo, anche se oggi poi Faride parlare di purezza etnica è un concetto così, tanto per dire nord e sud, Faride. Ecco, ma c'è nel senso che c'è una differenza etnica tra nord e sud. Quello che vada valorizzato è la correttezza dell'amministrazione, bisogna implementare. Ma c'è una differenza etnica tra nord e sud, secondo lei? Ma non esiste. La differenza etnica oggi non ha senso, anche perché guardi, i migliori leghisti mi dicono al nord sono proprio spesso persone di origine meridionale che vivono e che sono fratelli padani come gli altri e che si battono esattamente per queste cose. Perché guardi, al di là di tutto, quando una siringa costa in un posto 4 euro, in un posto 1, questo non c'è dubbio. Non è questione di nord e sud, è questione che da là c'è uno che ruba con i soldi di quella. Non c'è dubbio. E ahimè il nord come tasse paga. Diciamo che non c'è bisogno di fare la padania per cambiare questa cosa. Le Marche più o meno sono lì, siamo lì, pari, più o meno diamo quello che riceviamo, quindi a noi ci può stare. Paolini, la saluto. Grazie. Siete stati gentilissimi. A presto. Buona serata. Aia. Buona serata. No, dico che siete gentilissimi, è terribile. Claudio da Roma, buonasera. Come gentilissimo. Buonasera. Ho aspettato molto, ma è stato bello sentire un leghista marchigiano. Ce n'è un altro anche che si chiama Isidori. Al 50% sono marchigiano, ma mia suocera mi ha detto che più che andare a un comizio dei Paolini preferisce mezzo piatto di vinci grassi. Di? Ma lei non lo sa che cosa sono, forse. Cosa? È pasta al forno con i frutti di mare, buonissima. Vabbè, quello quasi tutti. Vabbè, però invece di andare a un comizio No, ma a me Paolini sa, mi dà un senso. Io da piccolo, da ragazzo, vendevo i 15 e cercavo di venderli a tutti, no? Ne vendevo pochi, poi alla fine avevo cambiato mestiere. E questi leghisti adesso, almeno quelli con la poltroncina, continuano a stare attaccati all'amico Bossi. Poi sentono le notizie dei soldi in Tanzania, di Cosentino salvato. Ma io non si è vergognato a venire al telefono. Bravo. Oppure per lui è un piacere far di tutte quelle fesserie. Ma perché fesserie? Fesserie no. L'amico De Saronno c'ha gli amaretti, ma pensasse agli amaretti che sono tanto buoni. E la Lega tanto è finita, come sono finiti almeno il 99% dei partiti. Ma voi mi direte, l'1% qual è? Non lo so. Non lo sa, se non lo sa lei. Con questo dubbio atroce, non c'è più un partito che possa, né a me, altri milioni di italiani, presentarsi senza le solite demagogie. Magari ci fosse ancora Calamandrei, lo voterei volentieri. Quello ha parlato di Malagodi. Però non pianga. Non si commuova. Non si commuova. Per Calamandrei. Ma non pianga. Ma non pianga. Parliamo di Fanfani nelle case popolari dati ad Arezzo. Sa come disse. Quella è una bella cosa. Ricordiamolo, Fanfani. Dette le case a tutti gli aretini. Ricordiamo, tragicamente, per carità, grande statista, però Pietro Laretino, anche Pietro Laretino, che ha fatto Pietro Laretino? Un monologale con Cantina, Pietro Laretino. Comunque è una trasmissione meravigliosa, io mi diverto tanto, quando si cena si digerisce con amore, anche se mandiamo giù dei groppi favolosi, è un piacere, più leghisti sento e più digerisco. Molto bene. Grazie, un leghista al giorno toglie il mal di stomaco di torno. Questo è buono. Questo potrebbe essere, esatto. Oppure fa digerire più facilmente, questo mi è venuto male. Fulvio da Lucca, buonasera. Buonasera a lei. Vada. Intanto la ringrazio tanto per avermi ricevuto, per come minimo sarà 2 anni che aspetto questo momento. Fulvio, non è colpa nostra, non so che succede in questo momento. Mi sono sempre collegato alla Radio 24. Se ne è fatta una ragione. Sono un fedele ascoltatore. Bene, grazie. Vada. Lucca, sai che è la città di Marcello Pera anche. Sì, allora, chi se ne frega. Davo questa notizia anche a chi ci ascolta. Di tanta altra gente, anche perché Lucca, grande rispetto. Anche del nostro grande amico Paolo Del Debbio. Sì. Anche lui di Lucca. Conduttore di Mediaset. Mattino 5, sì. Certo. Poi vuoi elencare i lucchesi? No, però è una città molto bella dove sono stato. Si dice lucchesi, si dice? Prego? Fulvio, si dice Lucchesi? Lucchesi, sì, sì, Lucchesi. Certo. Bene, vada pure con il suo intervento. No, questo, vada. Ecco, stiamo, secondo me, dando importanza a un partito che poi sostanzialmente è circa il 6% della popolazione. Cioè la Lega, se... dice, la Lega? Sì, la Lega sostanzialmente... Anche il 9, anche il 10 ogni tanto, No, se si fa praticamente su votanti e su quelle che sono le percentuali in relazione a quelle... Cioè si va a vedere poi se si stringe un attimino. Ma che si stringe? Che deve stringere? Il dato a livello nazionale quello è. Cioè, è lo stesso, la stessa cifra dell'UDC praticamente. 8, 9, dipende poi dalle elezioni quale punto di riferimento utilizziamo. Se vanno a votare più o meno le persone, cioè si sta parlando quasi del nulla. Soltanto loro del nulla? Ma del nulla. Ma allora di rifondazione, non è che se uno prende il 2%, il 10% non se ne deve più parlare, o prende l'8% non se ne deve più qual parlare. Qual è il punto, scusi? Sostanzialmente è questo, che stiamo dando, diciamo, una voce a un qualche cosa che poi nella realtà italiana non è che ha una corrispondenza poi materiale. Sono milioni di voti comunque, sono milioni di voti, che dice? Ma milioni di voti, ma che sostanzialmente sono tutti riferiti a una zona, cioè non che praticamente... Beh certo, concentrati in gran parte al... Oh, ecco... Cioè non abbiamo poi sostanzialmente quello che può essere una voce. Scusi, di però, popolo non italiano. Se ne non se ne parlerebbe così tanto se non fosse un partito che non solo è stato decisivo nel governo Berlusconi, ma continua a essere un partito importante per quello che avviene certamente quasi decisivo nel nord Italia, in moltissime amministrazioni, in regioni importanti come il Piemonte e il Veneto e forse nel futuro anche in Lombardia, in comuni e anche consistenti come Verona eccetera eccetera, dove il sindaco Tosi ha un consenso straordinario. Bene, ma non devo fare l'apologia della Lega o non devo raccontare a nessuno quanto è importante parlare della Lega. La ringrazio, signor Fulvio, andiamo a sentire la borsa. Non so se tanta non roba. Non so se il mitico Carlo Giovanardi, che saluto, buonasera. C'è già? Come va? Ben ritrovato. Come sta Zanzara. Giova? Possiamo chiamarla Giova? Ormai, buon anno, ormai è disoccupato, lei non fa più niente, ormai. Diciamo la verità. Organizzato però. Che è organizzato? No, disoccupato organizzato. Bisogna fare da solo quello che prima facevamo in 30, altro che niente da fare. No, ma voglio dire, come deputato, ormai appunto, non conta. Potrei formare un sindacato in difesa di... quelli che devono fare 20 volte quello che facevamo prima. Posso chiamarla Giova, vero? No, ma sì. No, perché Crozzo la chiama sempre Giova. Giova a tutti questo. Scusi, Giovanardi, però veramente questa cosa, sì. Cioè ormai, sì, diciamo, non si sente un po' inutile? Beh, adesso. No, come deputato, sì, come deputato. No, per la verità, come deputato, proprio ininfluente, la mia presenza è assurda, controproducente... Anche perché sono senatore. No, è deputato, senatore. Ma come senatore? Non si sente totalmente inutile, aggiungere. Cioè, rispetto totalmente. Ormai ad un governo in cui si vedono in tre i segretari, in cui c'è la maggioranza e... Si annoia, dai, che insomma, fa? Si annoia terribilmente. Diciamo. Il vecchio proverbio che diceva, tanto va la gatta al lardo, no, al largo. Ci lascia lo zampino, nel senso che... poi succede che, come la storia degli ultimi 20 anni dimostra, a un certo punto il Senato o la Camera, cioè i rappresentanti del popolo, diventano importanti perché sono quelli che, come nelle gare automobilistiche, stabiliscono quando la gara incomincia ma anche quando finisce. Ne sa qualcosa Prodi, ne sa qualcosa Berlusconi. Vabbè, ma non è lo stesso clima, su, non è la stessa cosa. Per il momento non è così. Io dico per il momento, adesso mentre stiamo parlando il 16 gennaio, sono d'accordo con voi. C'è. Ma non so, il 18 di gennaio, il 2 di febbraio, che cosa succede? Però mi dica la verità, la sensazione è che oggi lei va al Senato e dice, vabbè, ma che ci sto a fare qua? Questa è la sensazione. Potrei essere, che so io, lavorare a San Patrignano, faccio per dire. San Patrignano è una bella esperienza, ma infatti io le comunità le conosco... quasi tutte. Cioè più utile oggi sarebbe più utile, bravi. No, seriamente, oggi sarebbe più utile stare per un senatore della sua condizione, stare magari a San Patrignano, no, che non al Senato. Devo dire, vi ho già detto una volta, voi perché siamo amici, no? Sì. Io qualche volta rimango esterrefatto della totale ignoranza, che voi dimostrate per esempio. Per noi sempre. Come, no, lo dico perché in amicizia, no? In amicizia, voi dovreste certo. Venire un giorno dal mattino alla sera. Sì. Al Senato, cominciando alle 8 in commissione, per esempio come sono io in commissione giustizia, per passare poi in aula, per andare poi in commissione, a vedere il tipo di realtà che si vive e come ogni emendamento che viene presentato, perché malgrado il governo tecnico, basta un emendamento o una virgola spostata nello stesso emendamento per modificare la vita di migliaia di persone o la situazione economica, certo, e questo però avviene non a San Patrigliano, come fanno altre cose interessantissime, avviene quando nella commissione c'è il senatore o il deputato bravo che conosce le cose, che presenta l'emendamento, che lo fa passare, e da quell'emendamento dipende la vita, la libertà. Adesso non è che ci deve venire a spiegare economica, ma è così che funziona. Scusi Giovanardi, non è che noi non sappiamo quanto sono importanti gli emendamenti, eccetera, sto dicendo nel complesso. Ma gli emendamenti si presentano in commissione, le commissioni avvengono al Senato, alla Camera, è il cosiddetto lavoro parlamentare. Ho capito, ma qui non è che c'è un'iniziativa di legge dei partiti, decide tutto. Ho capito, pensi che persino negli Stati Uniti, dove c'hanno un presidente, qualche volta Obama, qualche volta Kennedy, c'è il congresso degli Stati Uniti, il presidente, è forte il presidente degli Stati Uniti, ha grandi poteri, però il Senato e la Camera degli Stati Uniti, quando presentano i famosi emendamenti o fanno le famose leggi, determinano è un altro sistema, presidente, la vita dei loro cittadini, si chiama democrazia, insomma, una cosa assolutamente conosciamo anche noi che siamo ignoranti. L'esordio che avete fatto, la vostra conoscenza non è così, chiediamo scusa, qualcosa sappiamo anche noi, qualcosina, ma si può sempre migliorare, sempre deputati e senatori, anche i giornalisti possono sempre informarsi, migliorare tutto. Senta, Berlusconi intanto è tornato a raccontare barzellette, lo ha fatto nei 20 anni, per la festa dei 20 anni del TG5. Sentiamo questa performance, è la famosa barzelletta di Carletto, no? Lei la sa la barzelletta di Carletto, Giovanardi? No, non la so, la sento e poi la commento. Sì, perfetto. Allora, in dialetto comasco, non è che si capisce molto ogni tanto, qualche passaggio non è chiarissimo, è praticamente questo Carletto che non riesce a ciulare, lei conosce la parola ciulare? Come la tradurrebbe lei ciulare in modenese? Coito. Coito, ma coito, è un termine tecnico, medico quasi, insomma. Comunque, non è una storiella il cui racconto è adeguato ad un ex presidente del Consiglio, ma tanto ormai siamo declassati, così avrebbe detto Berlusconi, che sentiamo alle prese con la barzelletta di Carletto. Un lago vicino a casa nostra, il lago di Como. Cernobbio, la più bella cittadina sul lago di Como. L'hotel di Villa d'Este. Lunedì, i ragazzi che aspettano con grande entusiasmo l'arrivo di uno di loro. Chi è costui? È Carletto, il playboy di punta di Cernobbio. Sanno che si è fatto finalmente la ragazza che tutti hanno desiderato ma che nessuno ha avuto, detta anche la contessina. Arriva Carletto, ignaro, e tutti dicono che è andato su al Villa d'Este e ha preso addirittura l'appartamento su in che si prende sempre il Berlusconi. Sì, ma a me mi fa il 70% di sconto quando non c'è Berlusconi. E noi abbiamo visto tutto, hai ballato nel salone e abbiamo visto che facevi i giri di vaso. È vero o no? È vero. Poi hai spento la luce e acceso la luce della camera. Sei andato in camera, è vero o no? È vero. Poi hai spento la luce, ma prima di spegnere la luce hai visto che ha fatto un salto sul letto. Sì, te l'hai portato in letto. È vero o no? Sì, è vero. E allora te l'hai ciulata. Sono andato lì per ciulare, lei mi ha detto no, ho bisogno del vento, ho bisogno di tanto vento nei capelli, chi se ne fa? Io mi sono misteri a soffiare, a buffare, no? E dopo la mattina, no, io ho anche bisogno col vento, ho bisogno dei lampi, io ci fa la bajou sul comodino e facevi i lampi, e buffavi e facevi i lampi, e poi lei mi ha detto, no, ma io ho bisogno coi lampi, col vento, ho bisogno anche del tuono. E si deve fare, vivi, dai. Che fa? Cioè, paga lui. E buffare, allora quei lampi, e buffavi. E dopo te l'hai ciulata. Ma avete fatto a ciulare con un tempo di merda in sci. Nessuno andrà a casa. Ma come un po' ridevi. Moltissimo, ma come fai a maciulare con un po' di temi? Mi dica. Ahimè, una che mi preoccupa molto. Cosa? Lui mi chiama Carletto. Quindi è dedicata a lei? Sì, no, non dedicata a me, però mi preoccupo perché faccio. E la seconda cosa, però, ragazzi, siamo seri. Io ho visto degli orfani del potere che sembravano dei funerali di quinta classe, è vero. Che non si sono più riavuti e sono ancora in crisi esistenziale. E invece qui? Ma insomma, devo dire che perché insomma, poi ognuno di noi. Si deve dimettere, si dimette come ha fatto lui, insomma, non è in un momento forse fra i più felici della sua vita, però sta meglio di prima. E invece di andare in crisi depressiva e odiare il mondo, la prende anche in maniera sportiva e rilassata, credo che sia uno degli aspetti positivi del carattere di Berlusconi. Senta, ma come barzellettiere, lei ha sentito questa barzelletta un po' incomasco, ma era abbastanza comprensibile, raccontata anche bene, devo dire, perché poi le sa raccontare, o sbaglio? Beh, questo io l'avevo già sentita, non è che va a raccontare, questa va vista, perché tutte quelle funzioni che riceve, il ventilatore, il tempo, lui le mima contemporaneamente, quindi è bravo, insomma. Voi avete sentito l'effetto che aveva sugli ascoltatori, ma lui viene dal pianoforte, dalle crociere. Ecco, ma lui è più bravo, che ne so, di uno delle... Lasciamo stare le crociere. Che ne so, di un bramiere, lasciamo perdere le crociere. Viene le crociere, lasciamo crociere. Perché poi l'Italia è un paese molto provinciale, no? Perché anche negli Stati Uniti aveva avuto un presidente Reagan che veniva dal cinema, no? Quindi... Certo. Scusi un attimo, anche Schwarzenegger, come barzellettiere è meglio lui o Gino Bramieri, o che ne so, Bramieri, altri eccetera, o Zelig? Cioè, lui potrebbe andare a Zelig, Berlusconi, secondo lei, tranquillamente? Dove? A Zelig tranquillamente. Beh, se avesse 50 anni in meno, come giovane ventenne in carriera, provare a Zelig a vedere se trova una strada nella vita. No, voglio dire, però anche adesso sarebbe una cosa strepitosa, Berlusconi a Zelig. Un must sarebbe, no? Beh, a me presumo una cosa, vedete, quando sono stato arrivato a sta barzelletta, allora fino a tre mesi fa. Nella festa per i 20 anni del TG5. C'era l'obbligo di risata, no? Sì. C'era l'obbligo di risata, adesso non c'è più l'obbligo di risata, quindi se le persone quando fa quelle cose di... ragazzi, adesso che Berlusconi abbia dei difetti, ok, che abbia fatto degli errori, okay, due volte. Beh, ma che fanno passare poi per un cretino, per uno sprovveduto? No, ma siamo matti. C'è una tendenza, no? Voi leggete i giornali come me, allora sembra che questo nella vita non abbia mai fatto nulla, sia un accidente. No, diciamo che qualche qualità. Ma figuriamo. Più di qualche qualità. Ecco, appunto. Ma scusi, innanzitutto lui le case se le compra e non è che c'ha bisogno, no, dello sconticino come qualche ministro di questo governo Monti, o sbaglio? Io... allibisco perché essendo membro di questa casta che viene ogni giorno crocifissa, sì, la casta. E piacerebbe essere crocifissa invece come consigliere di Stato e membro di un'authority e quelli che fa arbitrati. Perché voglio sono... cambiare categoria di crocifissione. Di chi parla? Voglio passare dalla casta, ma di chi parla? 4.000 euro al mese, quelli tanti sono, alla casta invece dei servitori dello Stato. Non sono 4.000, sono 16.000, giovane. No, sono 4.000, in attimo, guardi, ricominciamo ancora la storia. Scusi, l'ha certificato la Commissione? Sono 4.000. L'ha certificato che la Commissione... Ho detto, sono pronto, e lo ripeto, e nessuno raccoglie, a pigliare la metà della metà ma di quello che ma avete fatto una commissione stella. Parlamentare, Giova? La metà di quello che pigliano i membri del Consiglio di amministrazione. Ma c'è stata una commissione? La metà della metà della metà di quello che pigliano i bancari che mi fanno la lezione, la metà della metà della metà. Scusi, ma pronto, non c'è dubbio che ci siano altre, non c'è dubbio che ci siano altre categorie. Ma dico la metà della metà della metà. Ho capito, ma scusi un attimo, avete fatto una commissione presieduta dal signor Giovannini. No, la commissione è stata fatta da esimi professore, anche espresso degli orientamenti. Poi sapete il vecchio... Che orientamento? Ha dato dei numeri, quale orientamento? Più sordo di quelli che la vogliono sentire. E chi è questo qua? È quelli che, malgrado sia stato dimostrato agli atti che alla fine a un parlamentare... Guadagnano 16.000 euro al uno mese? Uno che fa il suo mestiere, gli rimangono 4.400. Ma non è così, ma quale 4.400? Ma ancora costa stare. E sono pronto a dimostrarlo ovunque. Allora la commissione ha sbagliato. Con tutti quelli, e a fare cambio... Io Giova, lo dico per radio, lo dico pubblicamente, sì. Voglio avere la metà della metà di Rizzo e Stella, dei giornalisti del Corriere che pontificano, la metà della metà dei consiglieri di amministrazione di questi giornali, la metà della metà della metà dei dirigenti, dei consiglieri di amministrazione delle banche, sì, che pigliano 10, 20, 30, 40. Scusi, Giovanni, mi dica una cosa, le cifre fornite a loro dalla famosa commissione Giovannini sono delle cifre esagerate? Sono delle cifre, ha sbagliato la commissione Giovannini? Ci sono state troppe pressioni? No, sono cifre, infatti se voi leggete allora sono 16.000. Mi spiegano che quello che rimane, tanto cos'è il lordo, cos'è il netto, quante sono le trattenute. Ma non sono 4.000. Ma non sono 4.000, siete i più pagati d'Europa. Alla fine dei conti rimangono, e poi può piacere, può non piacere. Poi io aspetto di dire, finalmente in questo paese decidono se un parlamentare deve pigliare più o meno delle 20, 30, 50, 100, 200, 300 funzionari di banca che ci sono a Modena, delle decine di migliaia che ci sono in Italia, o deve pigliare quello che piglia in media i miei compagni di scuola del liceo, di cui tutti pigliano più di quanto prendo io, quindi mi dicono finalmente che cosa vogliono. Bella classe. Che cosa volete? No, non è mai la classe. No, è una classe di gente brava, evidentemente. No, guardi, se uno fa l'oculista, se uno fa il dermatologo, guadagnano più del parlamentare. Se uno fa l'avvocato, beh, guardi, non so che cosa dichiarano. Ma scusi, il parlamentare è un poveraccio. Secondo me, da resto non c'è né medico che è ospedaliero arrivato a un certo punto della mia età che non prenda 5-6 mila euro. Però scusi un attimo, Giovanardi, per concludere, lei mi sta dipingendo la figura del deputato come praticamente sottopagata rispetto... No, sto dicendo che quando vedo i conduttori televisivi tipo Fazio che portano a casa un milione e mezzo di euro e quindi portano a casa 100.000 euro al mese, che rompono le scatole a me che ne piglio 4.000 e che sono a tempo pieno 7 giorni su 7, compresi il sabato e la domenica. Ma quello è il mercato. Perché giro per l'Italia, che devo dire? Vada lei al posto di Fazio. Che deve dire? Dica qualcosa. Mi dicono loro, facciano stelle come tra Mussolini, mi dicono dall'alto dei loro, perché sono milionari sulla mia pelle, Rizzo e Stella, ma non sulla sua, sulla mia, su quella del mercato, sulla mia pelle, scrivendo i libri sulla casta, no? Mi dicono loro che cosa devo prendere, finalmente si sappia che cosa l'Italia vuole che un parlamentare debba prendere e la finiamo con sta roba. Rizzo e Stella sono miliardari sulla pelle di Giovanardi, questo lei sta dicendo? No, della casta. No, lei ha detto sulla mia pelle, sono miliardari sulla mia pelle. Pelle della casta, io procuoto dato. I libri che hanno venduto, bravissimi, però ho fatto un calcolo, si sono presi milioni di euro con questi libri. Scriva un libro, io Giova, la mia autobiografia, vediamo quanto vende Giova. Traffico. Siamo qui, 800 24 0024, la Zanzara, abbiamo parlato di tante cose questa sera, tantissime cose. Ho fatto anche quella telefonata lì, sì. Sta anche quella telefonata. Bene, Massimiliano da Roma, poi concludiamo con Giovanardi. Massimiliano. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ciao Max. Vada. Volevo fare un intervento sulle liberalizzazioni dei taxi. Volevo dire che non so se sono una lobby o meno, però la compravendita delle licenze secondo me è uno scandalo, perché le licenze le concede il comune e non è possibile poi tenerle a vita, passarle ai figli, rivenderle. Volevo sapere cosa ne pensate. Guarda Massimiliano, abbiamo già dato da questo punto di vista, anche se la vicenda continua, sono annunciate altre mobilitazioni, perché ancora non si conoscono i provvedimenti del governo, il famoso governo tecnico, si conosceranno fra poco, immagino. E insomma, quando si conoscerà poi il dettaglio di quella che sarà la riforma dei taxi, poi vedremo naturalmente. Per me la questione della licenza, l'ho già detto, è una perversione. Detto questo, siccome ci sono delle licenze che sono costate, poi non è che il valore di questa licenza non si può annullare tout court, anche se le cose poi nella vita possono cambiare, come il valore di una casa, no? Oggi è 10, domani può diventare 5, cioè non è che... Però parlare di liberalizzazione e mettere sullo stesso piano tassisti e notai è un'infamità. Oppure tassisti e la rete del gas o altre perché cose. I tassisti non sono dei lavoratori privilegiati, stanno in macchina 8-9 ore e... Alessandro da Treviso, buonasera, vada. Ah, buonasera, allora, era un po' che non la sentivo, senta. Vorrei capire una cosa, se il patto Berlusconi-Bossi, il famoso patto Berlusconi-Bossi mi sembra un po' datato ormai. No, l'accordo che sembra essere ancora rinato, adesso, si basa. Su che cosa? Sulla Patonza. Vabbè, ma Alessandro. Sul Viagra. Vabbè, ma che parole sono, scusi? No, mi lasci finire. Ma che parole sono? Ma stiamo parlando di politica, non di Viagra, di queste cose. Questa è Radio 24, come si permette? Scusi, lei da Bossi ha sentito qualcosa? Ha sentito qualche volta parlare Bossi di politica? Beh, adesso non esagero. No, ma scusi, lei, io la sento ogni tanto, lei è suo collega, sicuramente la si può contestare, criticare, ma è una persona che sa o quando parla con noi. Beh, guarda. Ma lei ha mai visto un ministro che... si esprime o con una gestualità come quella di Bossi? Ma Bossi ha fatto politica, secondo lei? Certo. Qualcosa ha costruito, poi la si può criticare o meno. Ha costruito un partito che ha fatto la storia di una parte dell'Italia importante. Bossi non ha fatto altro che copiare il modo di far politica di quello che doveva indossare o su cui dovevano calare il cappio nel 92. Vabbè. Per cui non ha fatto altro che essere determinante per tenere in piedi Berlusconi. Bene, grazie Alessandro Giovanardi, primo giorno di dire? Primo giorno di libertà per Sofri. Che devo dire? Primo che, giorno no, di libertà per Sofri. Questa, posso dire quando sento questa telefonata? Non le ispira nulla, da... primo giorno di libertà per Sofri, non le ispira niente? Che cosa? Così. Primo giorno di libertà. Un pensiero. Per Adriano Sofri. Ma, bentornato a casa. Non so. Io ho conosciuto benissimo il figlio di Calabrese, l'avvocato Edoardo Ascari, sì, che è morto 6 mesi fa, era un mio fraterno amico, mi ha sempre raccontato del processo. Lui era parte civile, e quindi su buon prezzo Pietro Stefani e Sofri preferirei non parlare perché... E come no, siamo qui a parlare. No, preferirei non parlare perché non è una grande pagina della storia italiana. Oggi ha pagato, no? Con oggi ha... Con oggi ha finito sì, di pagare. No, ma, che non è, ma certo, non è, poi qualcuno è uscito di carcere perché stava male e poi è sparito, mi sembra, stava malissimo. Lui ha scontato tutta la pena in carcere, peraltro. No, Pietro no, Stefani... No. Pietro... No, lui sì, no, Sofri assolutamente, da dire. C'erano anche Pietro Stefani stava male, però. Diciamo che fra l'esecutore materiale quello che era stato veramente sì, quello che aveva indotto Sofri ha pagato una responsabilità morale che lui Senta, aveva Giovanardi pagata. Quando è che ci viene a trovare a Roma, che stasera sì, abbiamo concluso, c'è anche un sacco di cose di cui parlare, mi lascia dire solo di quello spettatore, di quello ascoltatore velocissimo, però velocissimo, no, la tristezza dell'Italia in cui tutti quelle uno Bossi può odiarlo o amarlo, però ha fatto una rivoluzione politica, ha pigliato milioni di voti, ha cambiato la faccia del nord, e allora farlo passare per un pirla, no, ma chi lo fa passare? Scusi, ma perché Maroni mi è diventato giustizialista all'improvviso, o lo è sempre stato Maroni? Ma Maroni è sempre stato così giustizialista in fondo, secondo lei? Quando venga a Roma parliamo di Maroni. Bene. Bene o male? Come ne parliamo? Bene o male? Tanto ne parliamo, non dite voi che parlare è tanto la cosa importante. A domani 18:30. Saluti. Io non finirò mai di ringraziarti perché sei stato decisivo, ti sono grato per la vita, questo lo devi sapere. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.